Chiamiamolo festival, non chiamiamolo festival, chiamatelo un po' come vi pare, diciamo una tre giorni di incontro-racconto per cercare di creare rete, creare alleanze attraverso momenti di incontro, attraverso talk, attraverso workshop, attraverso momenti performativi. Ci piacerebbe proprio riuscire a creare momenti di incontro e racconto per mettere un po' al centro il pensiero riguardo alla nostra città e riguardo anche ai nostri desideri. Avremo due luoghi a disposizione, saremo in Fondazione Barberini il venerdì e la domenica. Il venerdì dal pomeriggio dalle 17 e la domenica invece dalle 10 del mattino. Cominceremo subito i lavori con il workshop. Il sabato invece saremo tutto il giorno in Sala Tassinari, inizieremo presto, prestissimo dalle 9:30 e poi il tutto culminerà con un momento performativo al cortile Guido Fanti, al cortile del Pozzo, dove ci sarà il live delle Cadavere Squisite per concludere questa seconda giornata al meglio. Questa nostra missione, prima edizione, ma in realtà siamo già al lavoro sulla seconda edizione del festival. Vogliamo che questo diventi un appuntamento annuale, un appuntamento di incontro e racconto. Lo desideriamo tanto perché ci siamo rese conto che in città c'erano tantissime esperienze, però avevamo voglia di riuscire ad aggregare tutte queste esperienze e quindi a creare sicuramente un momento importante a ottobre, ma in realtà l'esperienza comincerà già dall'inizio del 2024 e poi ci sarà un momento di restituzione proprio nei giorni del festival.